Oggi leggeremo il racconto Samsa innamorato di Murakami. Prima parte. Quando si svegliò nel letto, si accorse di essere diventato Gregor Samsa. Era supino e guardava il soffitto. Gli ci volle un po' di tempo per abituarsi alla penombra della stanza. Il soffitto non aveva niente di speciale. In origine doveva essere bianco crema, ma negli anni polvere e sporcizia l'avevano fatto diventare color latte cagliato. Non aveva decorazioni o altre caratteristiche visibili, né pretese né messaggi. Svolgeva senza problemi il suo ruolo strutturale di soffitto e non pareva aspirare ad altro. Su una parete della stanza, quella a sinistra dal punto di vista di Samsa, c'era un'alta finestra, ma era bloccata dall'interno. In sostituzione delle tende di cui una volta doveva essere provvista, erano state inchiodate in senso orizzontale lungo tutto il telaio diverse assi di legno. Fra un asse e l'altra, delle fessure di alcuni centimetri, non era chiaro se lasciate intenzionalmente o no, facevano entrare il sole del mattino, che tracciava sul pavimento delle strisce di luce parallele. Perché la finestra era stata sbarrata in un modo così drastico? Difficile dirlo. Per impedire che qualcuno entrasse? Oppure per impedire che qualcuno uscisse? Ma qualcuno chi? Samsa stesso? O forse stava arrivando un qualche tornado? Sempre supino, muovendo solo la testa e gli occhi, Samsa si guardò intorno. A parte il letto su cui era sdraiato, nella stanza non c'erano mobili. Niente armadi, tavoli o sedie. Nessun quadro, orologio o specchio appeso alle pareti. Non si vedeva alcun tipo di lampada. E sul pavimento, fin dove arrivava il suo campo visivo, non c'erano tappeti o moquette. Un semplice e nudo parquet. La carta da parati aveva decorazioni minute, ma era talmente vecchia e sbiadita che nella penombra, ma forse sarebbe stato lo stesso in piena luce, era impossibile capire che cosa rappresentasse. Sulla parete di fronte alla finestra, alla destra di Samsa, c'era una porta, con un pomo di ottone annerito qua e là. Forse in origine quella stanza era stata usata come camera da letto. L'atmosfera era quella, ma al momento ogni traccia di chi l'aveva occupata era stata cancellata. Era rimasto solo il letto, posto nel centro, ma senza coperte o lenzuola, tra punte o cuscini, soltanto un vecchio materasso. Samsa non riusciva a immaginare dove si trovasse né cosa dovesse fare. Capiva a malapena una sola cosa. Ormai era un essere umano che si chiamava Gregor Samsa. Come faceva a saperlo? Forse qualcuno glielo aveva sussurrato all'orecchio mentre dormiva. Il tuo nome è Gregor Samsa. E poi, chi era prima? Che cosa era prima? Se cominciava a seguire questo pensiero, però, la sua coscienza a poco si offuscava. E in fondo alla sua testa si alzava una colonna scura di zanzare, che diventava sempre più spessa e densa. Si spostava verso le parti più molli del suo cervello, producendo un leggero brusio. Samsa smise subito di pensare. Per lui riflettere a fondo su qualcosa in quel momento era uno sforzo troppo grande. In ogni caso, doveva imparare a muoversi. Non poteva restare per sempre supino a guardare il soffitto. Era troppo vulnerabile. Se avesse subito un attacco da un avversario in quella posizione, ad esempio da parte di uno stormo di uccelli rapaci, non avrebbe avuto possibilità di sopravvivere. Per iniziare, mosse un dito. Le sue mani ne avevano 5 per una, 10 lunghe dita in tutto. Erano dotate di numerose articolazioni che rendevano complicato compinare i movimenti. Se non bastasse, tutto il suo corpo era intorpidito, quasi fosse immerso in un liquido vischioso e pesante, al punto che gli era difficile trasmettere forza alle estremità. Tuttavia, chiudendo gli occhi e concentrandosi al massimo, provando e riprovando, a poco riuscì a muovere le dita di entrambe le mani e, anche se pur lentamente, a comprendere come funzionavano le articolazioni. Il controllo delle dita portò gradualmente all'attenuazione dell'irrigidimento che bloccava il suo corpo. Però subentrò, come scure rocce sinistre appaiono al ritiro della marea, un dolore intenso e sempre più forte. Gli ci volle del tempo per capire che era solo fame, una fame spaventosa, una fame che non aveva mai provato in vita sua, perlomeno non ne aveva memoria. Era come se per una settimana intera non avesse mangiato il minimo frammento di cibo, come se nel suo corpo si fosse aperto una voragine. Tutte le ossa gemevano, i muscoli si contraevano, gli organi interni erano in preda a spasmi. Non potendo sopportare oltre quel dolore, Sams appuntò i gomiti contro il materasso e a poco si tirò su. La sua spina dorsale scricchiolò diverse volte. Quanto tempo era rimasto sdraiato su quel letto? Ogni parte del suo corpo, di fronte alla necessità di alzarsi, di cambiare posizione, alzava grida di protesta. Ciononostante, incurante del dolore, concentrando tutte le sue forze, Samsa riuscì a mettersi seduto sul letto. Quanto era brutto! Guardando il suo corpo nudo, toccando le parti che non vedeva, non poteva fare a meno di trovarsi orrendo. E come se non bastasse, era sprovvisto di qualsiasi mezzo di difesa. Una pelle bianca e liscia, coperta da una peluria poco più che simbolica, il ventre privo di protezione, un organo sessuale dalla forma assurda, soltanto quattro arti lunghi e sottili, fragili vene affioranti che sembravano corde bluastre, un collo lungo e fragile che poteva spezzarsi come un fuscello, una grossa testa deforme, con un fascio di peli lunghi e duri in cima, e ai lati due orecchie sporgenti che sembravano due conchiglie. «Sono davvero io, questo qui?» non poteva fare a meno di chiedersi Samsa. «Dovrei sopravvivere con questo corpo così irrazionale, assurdo, così vulnerabile? Perché non sono diventato un pesce? Perché non sono diventato un girasole? Un pesce o un girasole avrebbero avuto un senso, più senso di Gregor Samsa. Perlomeno. A quel punto mise giù le gambe e posò a terra le piante dei piedi. Il pavimento era molto più freddo di quanto avesse immaginato, una sensazione che lo colse di sorpresa. Dopo una serie di tentativi falliti, urtando di qua e di là, finalmente riuscì a mettersi in piedi. Aggrappato con una mano al bordo del letto, per qualche istante rimase fermo in quella posizione. Sentiva la testa pesante e non riusciva a tenere il collo dritto. Il sudore gli colava sotto le ascelle. I genitali per lo sforzo si contrassero. Dovette respirare a lungo, alcune volte per rilassare i muscoli. Quando si fu bene o male abituato a stare in piedi, dovette esercitarsi a camminare. Ma camminare implicava una serie di movimenti che costituivano una vera e propria tortura. Avanzare spostando alternativamente la gamba destra e la sinistra era sotto ogni punto di vista un atto irrazionale e contrario alle leggi della natura, mentre la posizione troppo alta dei suoi occhi rispetto al suolo lo faceva vacillare. Per trovare l'equilibrio, per imparare a coordinare le articolazioni delle anche e delle gambe, all'inizio dovette fare uno sforzo sovrumano. A ogni passo in avanti provava un terrore tale che le ginocchia gli tremavano violentemente e doveva appoggiarsi al muro con una mano. Tuttavia non era un motivo sufficiente per restare per sempre in quella stanza. Aveva bisogno di trovare del cibo e mangiare, altrimenti i morsi della fame avrebbero finito col consumare la sua carne e distruggerlo. Lentamente, tenendosi aggrappato al muro, avanzò verso la porta. Pur non avendo alcun modo di misurare il tempo, sapeva che ci stava mettendo ore. Era l'estrema sofferenza a dargliene la sensazione reale. Ciò nonostante, man mano che si muoveva, imparava poco a poco a usare articolazioni e muscoli. La velocità era molto ridotta e i movimenti goffi. Non poteva fare a meno di un sostegno. Eppure, in qualche modo, il suo corpo, pur con tutte le sue difficoltà, forse poteva funzionare. Toccò il pomo della porta, provò a tirarlo. La porta non si mosse, lo spinse ma non si riaprì. Allora provò a girarlo verso destra. La porta si aprì con l'interno con un lieve cigolio. Non era chiusa a chiave. Sams si affacciò e guardò fuori. Nel corridoio non si vedeva l'ombra di un essere umano. Il silenzio era assoluto, come in fondo al mare. Mise la gamba sinistra oltre la soglia. E senza lasciare il pomo si sporse in avanti con la metà superiore del corpo. Poi portò la gamba destra accanto alla sinistra. Tenendosi saldamente al muro, avanzò nel corridoio a piedi nudi. C'erano quattro porte, inclusa quella da cui lui era appena uscito. Porte tutte uguali, di legno scuro. Cosa ci poteva mai essere al di là? Qualche persona aveva una gran voglia di aprirle e guardare. Perché forse avrebbe potuto capire qualcosa della sua stranissima condizione. Trovare una parvenza di filo logico. Invece passò davanti a quelle porte cercando di non farsi sentire. Prima di soddisfare la curiosità doveva calmare la fame, riempire al più presto la voragine che si era aperta nel suo corpo. E sapeva benissimo dove andare per mettere le mani su qualcosa di commestibile. Basta seguire l'odore, pensò Sam, affiutando l'aria. Odore di cibo caldo, di cibo cucinato. Fluttuava in silenzio attraverso l'aria in particelle infinitesimali e veniva a solleticare le sue narici. Le informazioni percepite dall'olfatto venivano trasmesse al suo cervello, creando un'anticipazione così vivida, un desiderio così violento, che sentiva le budella torcersi come se fosse nelle mani di un efferato inquisitore. La bocca gli si riempì di saliva. Per raggiungere il luogo in cui si originava quell'odore, però, doveva scendere una rampa di scale. Per lui già camminare in piano era un'impresa ardua. Figurarsi fare quei 17 gradini sarebbe stato un incubo. Aggrappandosi al corrimano iniziò la discesa. A ogni scalino il peso del suo corpo gravava sulle sue fragili caviglie. Diverse volte ebbe l'impressione di perdere l'equilibrio e stare per rotolare giù. In quella posizione innaturale tutte le sue ossa e i suoi muscoli urlavano dal dolore. Intanto Samsa pensava ai pesci e ai girasoli. Se fosse stato un pesce o un girasole, avrebbe dovuto vivere tranquillo fino alla fine dei suoi giorni, senza bisogno di salire e scendere delle scale. Perché invece era costretto a compiere movimenti tanto innaturali e pericolosi? Non aveva senso. Dopo essere arrivato bene o male in fondo a quei 17 gradini, Sams si raddrizzò e usando le poche forze rimaste gli avanzò nella direzione da cui proveniva l'odore di cibo. Attraversò una hall dal soffitto molto alto ed entrò nella sala da pranzo, la cui porta era aperta. Qui, su un grande tavolo rotondo, erano disposti diversi piatti pieni di cose da mangiare. Intorno c'erano 5 sedie vuote. Nella stanza non c'era nessuno. Dai piatti si levava ancora un poco di vapore. Il vaso di vetro posto nel mezzo conteneva una dozzina di gigli bianchi. La tavola era apparecchiata per 4, ma nessuno sembrava aver toccato le posate o i tovaglioli immacolati. Come se delle persone fossero state sul punto di fare colazione. Ma qualcosa di imprevisto le avesse spinte ad alzarsi e scappare. Questa era l'impressione che avevano lasciato. E non doveva essere passato molto tempo da quando era successo. Cos'era accaduto? Dove erano andati tutti quanti? Piuttosto, dove erano stati portati? Sarebbero tornati per finire la loro colazione. Samsa però non si poteva permettersi di soffermarsi su questi pensieri. Si lasciò cadere sulla sedia più vicina, afferrò con le mani il cibo disposto sul tavolo e cominciò a mangiare, senza usare né posate né tovagliolo. Divorò il pane senza metterci burro o marmellata, addentò tutto intero una grossa salsiccia bollita, masticò un uovo sodo con tutta la buccia, si mise in bocca manciate di verdura marinata e pure di patata ancora calda. Masticò ogni cosa insieme e mandò giù tutto quanto, bevendo l'acqua direttamente dalla caraffa. Il gusto non gli importava. Buono, cattivo, aspro, dolce, per Samsa non faceva alcuna differenza. L'essenziale era riempire il buco che aveva nello stomaco.